Crisi economica, nodo immigrazione e scarsa fiducia nelle istituzioni europee. Un intervento a tutto campo, quello del capo dello Stato al workshop Ambrosetti. La crisi non è finita, dice Giorgio Napolitano, che lancia l'allarme occupazione. La crisi non è terminata e comunque è destinata a provocare serie conseguenze sul mercato del lavoro nei prossimi mesi. All'Europa chiede una scossa anche in materia di immigrazione. Serve un impegno comune, dice il capo dello Stato. Occorre superare la soglia di chiusura nazionale e garantire l'inalienabile diritto di asilo di chi si è costretto a ricorrervi. Dal Colle arriva poi una strigliata agli Stati nazionali a come hanno condotto la campagna elettorale per le elezioni europee, inducendo ad una scarsa fiducia verso le istituzioni UE. È una pura illusione pensare che qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, a partire dai più grandi, possa far valere i propri interessi nazionali al di fuori di uno sforzo congiunto europeo. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.